Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, il filo conduttore dell'appuntamento di oggi sono due compleanni. I 40 anni di Pep Guardiola, 18 gennaio 1971, e i 60 di Renato Zaccarelli, 18 gennaio 1951, bandiera storica ed ex capitano, anche ex allenatore per un breve periodo, vincente tra l'altro del Torino. Cominciamo da Pep Guardiola e facciamocelo raccontare dal ministro degli esteri Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Dico facciamocelo raccontare perché sì, parliamo di un'epoca diversa, ma tu hai anche conosciuto a Brescia per ragioni professionali Guardiola durante la sua breve permanenza bresciana. Sì, breve ma non trascurabile. Devo anche dire che Guardiola arrivò in un momento nel quale questa squadra sembrava soprattutto insomma guidata da un presidente come Gino Corioni che insomma, la piazza non ha mai particolarmente apprezzato, una parte della piazza non ha mai particolarmente apprezzato, dire la parte più rumorosa della piazza, ma non credo maggioritaria, e che invece in quegli anni riusciva a portare a casa dei colpi veramente pazzeschi. Se pensiamo che Brescia di Mazzone aveva Roberto Baggio, aveva Pep Guardiola, aveva Luca Toni, aveva molti altri giocatori, a centrocampo aveva Piai Matusalem, aveva Sereni in porta, che è quello di oggi ma con qualche anno in meno. Pare insomma che rileggendo quel periodo forse anche i risultati ottenuti da Mazzone furono pure inferiori, se vogliamo, alle possibilità che questa squadra poteva avere. Detto questo, io penso davvero che quando il Brescia annunciò Baggio fu qualcosa di veramente clamoroso, ma nella mia testa l'annuncio e l'arrivo di Guardiola ha anche superato a livello proprio di impatto l'arrivo di Roberto Baggio, proprio perché mi ero abituato negli anni precedenti a vedere questo meraviglioso Barcellona, ma soprattutto a vedere questo meraviglioso giocatore che era Guardiola, e pensavo fosse francamente impossibile che una squadra così piccola potesse anche semplicemente essere conosciuta da un giocatore come Guardiola. E di Guardiola mi ha veramente impressionato tanto non solo la classe che però era innata, non era una classe studiata, non era una posa, era un modo di porsi sia nelle conferenze stampa. Lui non praticamente le interviste non le gradiva e non ne ha praticamente mai concesse, e nemmeno oggi mi risulta abbia piacere a farlo, però in conferenza stampa veniva ed aveva un fascino, un magnetismo, una capacità affabulatoria con questa lingua molto particolare, molto colorita. Lui tra l'altro poi parla benissimo anche l'inglese, parla benissimo l'italiano ovviamente, e si esprime in catalano in conferenza stampa, quindi cioè, è un personaggio veramente veramente molto molto interessante, oltre, ripeto, a quello che faceva in campo. In campo era un regista classico, lo dico per i più giovani che non hanno visto giocare o che comunque se lo sono un pochino scordato. Avesse avuto cadenze leggermente più elevate sarebbe stato un fuoriclasse. Sì. Era, diciamo che queste leve lunghe lo rendevano un pochino più lento, no? Lento per il calcio che nel frattempo stava diventando, o era già diventato molto veloce, ma certo che quando la palla transitava attraverso i suoi piedi un senso c'era sempre. Oggi lo si rivede in Xavi, direi, no? Che però avendo leve più corte ed essendo probabilmente ancora, anzi senza probabilmente ancora più forte, direi che in quel ruolo l'ha non oscurato, ma insomma ha evoluto questo ruolo di interpretazione nel Barcellona. Guarda, a me piace, siccome è transitato anche lui con quella maglia, piace ricordare il Pirlo quando ha cambiato ruolo da attaccante a giocatore davanti alla difesa. Ecco, in quel cioè la capacità di apertura del gioco, la capacità di ribaltamento del gioco, la capacità di tenere la palla bassa e di farla andare a una velocità notevole. Credo che Guardiola piacesse molto a Lidlm, il quale sosteneva appunto che debba correre la palla. È la palla che deve sudare, diceva sempre il vecchio. Bravissimo. Ecco, a me ha ricordato molto quel Pirlo, ha ricordato molto quel Guardiola, cioè uno che si mette davanti alla difesa e comincia a prendere in mano la bacchetta e fa giocare sia quelli che gli stanno dietro che quelli che gli stanno davanti. Ecco, capacità senza, direi, con pochissimi eguali di tenere la testa alta. Ecco, sinceramente la vera differenza trovo tra i giocatori adesso, visto che tecnicamente il livello è decisamente si è decisamente livellato, la vera differenza è tra quelli che giocano con la testa alta, sì, guardando il campo, e quelli che guardano per terra prima di lanciare. Giocava a testa alta anche Renato Zaccarelli, no, sì, questo sì, lo ricordo vero. Io, e stiamo parlando di un'altra epoca che poi... No, ma la ricordo anch'io, Gigi, questo è grave. Ma... che poi ripasseremo invece dopo le due e mezza. Dunque, Guardiola, sull'inserto che stamane ha debuttato, della Gazzetta dello Sport, l'inserto Extra Time, sono 16 pagine dedicate al calcio europeo, cioè giustamente, inevitabilmente, una pagina dedicata a questi 40 anni del Pepe. Ci sono un sacco di messaggi e congratulazioni per lui, da Stoichkov, proprio da Roberto Baggio, da Laudrup, da Carletto Mazzone, eccetera. C'è anche la ricostruzione di quel momento, ed era Guardiola aveva 37 anni nel maggio del 2008, era finito il ciclo Rijkaard e l'allora presidente Laporte, lui Guardiola allenava la cantera, allenava i ragazzi, no? La seconda, sì, Barcellona squadra B. Barcellona B. E gli dice, beh, insomma, mi piacerebbe promuovere te a titolare, no? E lui gli risponde: secondo me non hai le palle per farlo, no? rispose Guardiola alla porta. Beh, invece questo, vero o non vero che sia questa risposta, ma credo di sì, perché insomma non si vede perché dovrebbe essere uscita una risposta del genere se non fosse stata autentica. Beh, da lì in avanti Guardiola ha veramente trasformato, non solo migliorato, ma ha trasformato ulteriormente un lavoro che era stato cominciato tanti anni prima da Cruyff. Sì. Questo da un lato ci può far ragionare, secondo me, in due direzioni. La prima è che comunque lui si è innestato su un lavoro già iniziato, ma non iniziato così tanto per iniziare, ma che aveva già dato dei risultati sia con quel Barcellona che poi con quel Barcellona di Rijkaard. Però è vero, il Barcellona di Rijkaard era un Barcellona che stava declinando, perché comunque anche giocatori che lo avevano fatto e lo avevano reso grande, ad esempio Ronaldinho, erano in una fase declinante, e lo stesso Rijkaard poi non è un caso che non abbia praticamente più ottenuto risultati e abbia anche fatto fatica a trovare posti di lavoro, come dire, degni di quel suo passato. Guardiola, da un altro lato, almeno a me, mette un forte dubbio, nel senso che mi piacerebbe vederlo anche ricostruire qualche cosa. Molti dicono che si ha un desiderio nemmeno troppo nascosto di Massimo Moratti di portarlo all'Inter. Ecco, a me piacerebbe vedere e testare Guardiola in una situazione completamente diversa, cioè dove lui non sia stato giocatore, dove lui non abbia avuto e potuto mettere mano al settore giovanile, per vedere come lui possa calarsi in una realtà diversa, perché ho il sospetto che questo gioco che fa il Barcellona, che in questo campionato a me sta cominciando a ricordare gli Harlem Globetrotters contro i malcapitati Washington Generals, vero. Il suo lavoro dovrebbe necessariamente essere diverso. Non si può arrivare in una squadra del campionato italiano e pensare in 4-4-8 di mettere insieme un lavoro come quello che lui ha fatto a Barcellona. Questo potrebbe essere da un lato una scommessa, da un altro anche un limite, cioè non vorrei che la magia, la meraviglia del gioco che scaturisce dal Barcellona sia anche un limite di Guardiola e del Barcellona, perché non possa essere riproponibile da nessun'altra parte. Forse Wenger con l'Arsenal, ecco, mettiamola così, se Guardiola andasse a allenare l'Arsenal forse sì, ma altrove trovo che fare diversamente. Altrove trovare 15 ragazzi della cantera da lanciare in 2 anni e mezzo non è che li può trovare dappertutto. Facciamo il primo intervallo, sentiamo come va sulle strade. E non possiamo fare una puntata intera su Guardiola, Fabio, però ancora una cosa mi faceva piacere sottolineare, che è questa. Dicevo, ha fatto debuttare 15 ragazzi della cantera in 2 anni e mezzo, ha trasformato alcuni giocatori tipo Busquets, Pedrito, li ha presi dal vivaio e direttamente li ha mandati a livello più alto mondiale, perché non ci sono stati, come dire, passaggi intermedi. Ma in questo frattempo però ha anche trasformato Messi, nel senso che quando Guardiola è arrivato a dirigere il Barcellona, Messi era uno straordinario giocatore la cui collocazione però era incerta, e soprattutto le sue qualità da goleador non c'erano o erano molto marginali. Adesso Messi è un cannoniere a tutti gli effetti, lui in una prima fase lo ha spostato sull'esterno destro, e poi addirittura non nel suo, quello che uno direbbe gioca da 10, no, questo gioca da centravanti in realtà, e gioca da centravanti con quel fisico. Insomma, ora è chiaro che ci vuole la disponibilità di Messi e soprattutto il talento suo, però ci vuole anche una discreta inventiva per una doppia destinazione d'uso come questa. Sì, perché era molto più facile mettere un destro a sinistra e un sinistro a destra e fargli scatenare come succedeva. Ronaldinho giocava a sinistra, ormai larghissimo, e poi rientrava per il destro. Messi giocava spesso a destra, se non quasi sempre a destra, e poi rientrava con il sinistro. Dipende sempre poi dai giocatori che ha a disposizione. Lui l'anno scorso ha avuto Ibrahimovic, che era un giocatore monodimensionale da quel punto di vista, e quindi forse è stato anche costretto a creare una situazione poi, o almeno a pensare una situazione alternativa per Leo Messi. Lui adesso fa tranquillamente la punta, cioè secondo me lui fa veramente quello che vuole, nel senso che gira un po' per il campo, va da una parte, va dall'altra, senza avere particolari vincoli. Però è vero, però il tabellino dei marcatori in questo momento, se non fosse per un Cristiano Ronaldo ingiocabile da questo punto di vista, Messi fa la prima punta, e certo, una prima punta così non si è mai vista. Marco, un ascoltatore bresciano, scrive: visto giocare anni fa a calcio tennis Guardiola, Baggio, Bacchini e Matusalem, beh, uno spettacolo che non dimenticherò mai. Lo credo bene, perché appunto a Brescia, con tutto il rispetto, insomma, vedere giocare 2+2 di questa levatura a calcio tennis non è una roba che capiti tutti gli anni. Restiamo in Spagna perché ci sono due paradossi. Il primo paradosso è che il Real di Mourinho non solo sta facendo bene, al di là del pareggio di domenica con l'Almeria, non solo sta facendo bene, ma sta facendo meglio di qualsiasi altro Real Madrid della storia, perché il record del girone d'andata di punti del Real Madrid sino ad ora era 47 sui 57 disponibili, parliamo di campionato a 20 squadre, ed era stato ottenuto da Schuster, del Real di Schuster nel 2008. Mourinho ha fatto un punto in più, quindi ha battuto questo record. Il suo Real nel girone d'andata è il più redditizio della storia. Il problema è che questo record lo ha strabattuto anche Guardiola col Barcellona, che ne ha fatti 52 su 57. Doppia considerazione, doppia riflessione. Uno, lo fanno spesso gli ascoltatori: qual è il livello del resto del campionato spagnolo? Io invito sempre a guardare giocare il Villarreal e ad aspettare Villarreal-Napoli, sfida tra terze forze del campionato, per stabilire poi un paragone, magari per avere un parametro in più. Ma altra considerazione indubbia è che può darsi che le concorrenti in Spagna siano davvero di un livello non altissimo, è possibile, ma queste due squadre in compenso sono due squadre di un livello spaventoso. No, queste io propendo per la seconda, perché vedendo comunque spesso le partite del campionato spagnolo non ho la sensazione, pur con le difficoltà che ogni tanto hanno il Siviglia, il Valencia, queste squadre, cioè le terze, le quarte, le quinte forze, il Villarreal, io lo trovo trovo una squadra che nel campionato italiano potrebbe essere tra il Milan e il Napoli in questo momento. Penso proprio anch'io. Credo invece che davvero Real e Barça siano fuori categoria. Siano fuori categoria, e il Real in questo momento è Felice Gimondi nell'epoca di Merckx. Cioè, potrebbe vincere a mani basse la Liga, ma il Barcellona sta andando troppo forte. Io quando prima ho fatto la metafora degli Harlem, non volevo essere, cioè non volevo mancare di rispetto al Barcellona, perché gli Harlem non hanno avversari in realtà, però è talmente imbarazzante la superiorità. Io poi ho guardato un po', cioè nelle ultime partite il Barcellona è rarissimo e faccia meno di 4 gol, li fa in casa, li fa fuori. L'Almeria l'ha battuto 8-0 fuori, dove il Real ha pareggiato. Il Real Madrid è una squadra completamente diversa. A me non dispiace nemmeno il Real Madrid, tutt'altro. Perché la partita col Villarreal è stata forse una delle più belle dell'anno. Sì. Ha una rabbia, ha una capacità di ribaltare le situazioni. Infatti io mi aspettavo che vincesse anche con l'Almeria, e tutto sommato senza quella traversa mostruosa presa da Ronaldo ci poteva pure stare la vittoria. Però Mourinho ha qualche problema. Mourinho ha qualche problema, nel senso che lui comunque combatte una partita. La combatte, nel senso che i suoi giocatori sono come quelli dell'Inter l'anno scorso e quelli del Chelsea anni fa, cioè vanno in campo e potrebbero andare veramente a camminare sui tizzoni ardenti per il loro allenatore. Quindi lui in questo ha fatto di nuovo quel clamoroso lavoro dal punto di vista psicologico. Però ho il sospetto che lui voglia fare anche una battaglia con Florentino Perez, una con Valdano, una con la stampa spagnola. spagnola, cioè la continua ricerca del nemico. A questo punto non vorrei che per lui che insomma che li trovasse davvero tutti questi nemici, perché anche la rinuncia preventiva a Benzema non sta vivendo una grande stagione, non sta vivendo un grande periodo, però è anche l'unico attaccante di peso, l'unica prima vera punta che ha. Poi lui non è entrato con una squadra sguarnita di attaccanti, perché Cristiano Ronaldo, Kakà e Di Maria davanti fanno, se io fossi un difensore avrei una discreta paura, però poi ha avuto bisogno di Benzema e come al solito quando lui è andato sotto ha buttato dentro tutto quello che aveva, cioè Granero e Benzema, creando un ingorgo, un intasamento centrale che può essere risolto solo da una magia di un grande giocatore come poteva essere Cristiano Ronaldo. Quindi io non lo so se lui abbia perso la Liga domenica, però andando sotto di 4, ma che di fatto sono 5, perché a meno che il Real non vinca 6-0 al Bernabéu contro il Real Madrid e contro il Barcellona, insomma è già un solco importante, visto che lui comunque stando sotto i 3 punti aveva la chance di vincere anche 1-0 certo, il ritorno, certo. E così non ce l'ha più. Poi non è mica detto che il Barcellona le vinca sempre tutte. Questo no, però certo è un'ipotesi. Una squadra che ha vinto 17 partite su 19, pareggiandone una e perdendone una, che ha una differenza reti di 61-11, beh, insomma, bisogna veramente che il meccanismo si rompa. D'altra parte, chi insegue, chi è a 4 punti, ha a sua volta ne ha vinte 15, ne ha pareggiate 3, ne ha perse 1, e la differenza reti di 47-17, che non è quella del Barça, ma non è certamente nemmeno quella di una. No, e oltretutto adesso ancora di più, cioè se il Barcellona deve vincere tutte per tenere i lontani, quegli altri devono vincere tutte per stargli vicino, quindi c'è una pressione ulteriore anche su di loro. Bene, era un appuntamento monografico questo, così è diventato, no? La prossima volta ci dilungheremo o ci soffermeremo su Premier League o su Bundesliga, su altri argomenti. Oggi, partendo appunto da questi 40 anni di Guardiola e da questo grande testa a testa con Real di Mourinho, mi sembrava l'argomento da approfondire. Grazie Fabio. Grazie a te Gigi, buona giornata a tutti. Grazie anche all'ascoltatore che si firma Gianluca, che scrive: ma vai a vivere in Spagna? Allora Gianluca, domattina, cioè c'è qualche problemino da risolvere logistico, ma se no le garantisco domattina, soprattutto per vedere giocare a pallone e non solo. Michele Brescia, buongiorno. Buongiorno, incredibile. Incredibile. Io sono un tifoso bresciano, anzi volevo salutare Fabio Tavelli, sì. Bresciano come me, però niente, io mi ricorderò sempre la prima conferenza stampa di Pep Guardiola qui a Brescia, no? Che è il solito giornalista bresciano che è come se potesse mettere in discussione la carriera di Guardiola facendogli la domanda, dicendogli che si dice che Guardiola sia lento, e lui di tutta risposta gli rispose: lento, molto lento, però quanto corre il pallone adesso. Sì, no? Una risposta incredibile. Certo. No? E io ringrazierò sempre Corioni per quei 3 o 4 o 5 anni che ho visto giocare quei giocatori lì, perché è l'unica soddisfazione che qua a Brescia abbiamo avuto sotto il profilo calcistico da tanti anni a questa parte. Michele, grazie. Grazie a lei Michele. Andiamo a Udine da Alex, buongiorno. Ah, salve Garanzini, è un piacere sempre parlare con lei, sì. Soprattutto oggi che nella puntata dove c'era anche Tavelli, che ritengo un po', se mi permette, un po' il suo erede come bravura, e spero che un giorno torni in radio, perché la TV non gli rende molto omaggio. Non gli rende perché merito. La TV... Io questo non trovo, però mai dire mai. Tende un po' a uniformare, lui spicca per qualità intellettive varie, come lei, insomma, lei sta meglio in radio. Vabbè Alex, devo avanti. Velocemente, guardi, volevo giusto rendere noto che da un calcolo esatto, nell'ultimo decennio in Serie A, l'Udinese risulta essere la sesta squadra in Italia dopo per punti conquistati, no? Mm-hmm. Dopo Inter, Milan, Juve, Lazio e Roma, ecco. Mm-hmm. Per dire, certe volte, no? Quanto poco si parla di una squadra che in realtà ha fatto molto rispetto a quello che ha fatto, perciò tante volte vede anche l'attenzione dei media, di cui tante squadre, tanti presidenti si lamentano di non avere. Ma che importa se il lavoro è fatto bene? Non c'è dubbio. Ma è una questione, Alex, di bacino di utenza. Lei ha nominato 5 squadre che ovviamente insomma, hanno un bacino d'utenza

sono arrivato che c'erano il Giorgio Ferrini, gli Agroppi, Cereser che stavano smettendo e che poi diciamo questa tradizione è continuata poi con me, con Pulici, con altri prodotti del settore giovanile e diciamo dopo il mio periodo, dopo Claudio Sala il mio è arrivato Cravero, ecco, quello che è sempre stato diciamo i vasi comunicanti, direi, sì. Il settore giovanile si passava alla prima squadra, il periodo di Cravero è inutile che lo ricordi, Lentini, Fuser, insomma, giocatori grandi Francini, ce ne sono stati e hanno fatto la fortuna di questa società, ecco, peccato che purtroppo a un certo punto questo filo si è così interrotto e adesso fa molta fatica a riannodarsi con la realtà attuale. Già. Senti, cosa ti è, a distanza di più di 5 anni, che cosa ti è rimasto di quella breve avventura in panchina del 2005? Lo ricapitolo per gli ascoltatori. Fine stagione, Zaccarelli viene precettato praticamente dalla società in panchina, no? Mi correggi poi se sbaglio, precettato in panchina, che non era il suo mestiere, non era quello che lui voleva fare da grande. Guida la squadra per le sole 4 partite ai playoff, le vince e quindi il Torino con Zaccarelli in panchina è promosso in Serie A. Peccato che pochi giorni dopo arrivi il fallimento e che da lì in avanti la nuova proprietà si dimentichi di Zaccarelli. A distanza di, ripeto, più di 5 anni, questo incrocio di emozioni, come ti è rimasto dentro? Ma guarda, ricordando quel momento lì, in particolare la promozione è stata una cavalcata fantastica e appunto devo ringraziare a tutti quelli che hanno contribuito e quindi grande soddisfazione, anche perché poi io facevo il direttore sportivo, anzi responsabile dell'area tecnica e con quella vittoria sembrava di aver visto, si cominciava a vedere la luce in fondo al tunnel, perché il nostro è stato un periodo, quegli anni lì, veramente difficili, riuscire ad andare in Serie A, rientrare nell'orbita delle società più importanti, ma soprattutto come sotto l'aspetto economico per i diritti televisivi, era vedere la luce in fondo al tunnel. Ti faccio scusami un breve inciso, luce in fondo al tunnel, perché proprio per continuare il discorso tu di prima delle staffette di certo. Talenti di giocatori, ci giocavano per esempio 2 ragazzini, si chiamavano Quagliarella e Balzaretti, per dirne 2, no? Sì, poi c'era Comotto, c'era Molingai, c'era insomma la squadra era già in più, aveva Mantovani che stava cominciando a emergere, c'era un giocatore importante come Acqua Fresca che era titolare nella primavera e poteva essere anche lui, buttali via. Il nostro prodotto, un'ulteriore iniezione di capitali sotto questa terra. Certo. E poi invece è una grandissima delusione, ma delusione soprattutto sotto l'aspetto della diciamo politico-sportiva, non so come poterla definire, perché la città in questo momento, in quel momento lì, anziché dare una mano al Toro, come poi si è visto in altre realtà della nostra Italia, si sono mosse tutte, qui non si è mossa nessuna, anzi sembrava che non vedessero l'ora di far sparire questa società o quel tipo di conduzione che c'era alla società. Che c'era in quel momento. Indipendentemente dai 99 anni di storia che stavano per essere compiuti, perché l'anno dopo c'era il centenario, quindi per me è stato da parte del mondo politico, finanziario, chiamiamolo così, di Torino, che non ci ha pensato minimamente a chiudere questo capitolo, e questa per me è la più grande delusione che ho avuto da questa città e dalla realtà in cui ormai mi sento piemontese e che ancora adesso faccio fatica a digerire. Me l'immagino e lo si capisce anche, lo si sente anche dalle tue parole. Sono passati 5 anni in cui, si diceva per l'appunto, all'inizio soprattutto della nuova avventura, quella guidata da Cairo, credo che i tifosi del Torino, ma anche gli osservatori neutrali, ma per esempio mi ricordo me, io ricordo che aprivo il giornale ogni tanto e dicevo, ma quando è che questo chiama Zaccarelli? Perché mi sembrava veramente un'autorinuncia, un'autocondanna incomprensibile. Oh, ne sono passati di anni, ma non mi sembra che la telefonata sia arrivata. Sì, ma sai, questo è un capitolo che preferisci. Vorrebbe più di questi pochi minuti che abbiamo a disposizione per poter illustrare. No, io credo che appunto chi è che entra, diventa proprietario di una società e la dirige e ha un suo metodo, ha un suo modo, e probabilmente, non dico solamente per quanto riguarda Zaccarelli, ma credo che per altre realtà importanti di Torino non si è trovato spazio, ma qui è una scelta che uno fa, e quindi anche chi la subisce la deve dover rispettare. Mi sembra che tu sia abituato a rispettare le scelte altrui e a giudicarle con l'eleganza che avevi in campo. E questo mi sembra che a 60 anni sia un buon bilancio, no? Qualche capello grigio bisogna uscire. Allora, insieme ai capelli c'è anche, appunto, gli anni che sono passati. D'altronde l'esperienza la si fa soprattutto con gli anni, ecco. E non sicuramente quando uno ha l'esuberanza dei 20 anni. René, un abbraccio e a presto, anzi a molto presto. Grazie Gigi, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie. Grazie, chiudiamo questo collegamento anche sentimentale, vi garantisco, con Torino. Sentiamo come va sulle strade. Domanda un ascoltatore con un sms: perché ho detto prima un collegamento anche sentimentale? Perché con Zaccarelli negli anni 90 mi è capitato anche di avere a che fare per lavoro, prima durante un periodo di Italia 90, insomma di un periodo del mondiale in cui sia pure su fronti in città diverse si lavorava per quell'esperienza, e poi subito dopo per un paio d'anni al settore tecnico di Coverciano, dove ho potuto misurare una volta di più, non che non la conoscessi prima, ma una volta di più anche fuori dal campo, la serietà, il rigore e il talento di questa persona del calcio, per i cui 60 anni stanno arrivando tantissimi messaggi di auguri che gli metterò da parte. Adesso sentiamo da Nicola Filippone che cosa ha scovato. Io però l'ho già visto, questa non è davvero male oggi. Ha scovato una chicca per questo 18 gennaio 76, al di là dei due compleanni di cui abbiamo parlato. Sentiamo. Sembra ieri. 18 gennaio 1976. Osvaldo Bagnoli, già nello staff del Como, viene promosso a primo allenatore e debutta come tecnico di Serie A in uno stadio e contro una squadra che per lui significheranno tanto in seguito. Al Bentegodi il Verona si impone per 3-2, trascinato da Emiliano Mascetti, autore di una doppietta. 9 anni più tardi, Bagnoli e Mascetti, uno da allenatore e l'altro in veste di direttore sportivo, saranno gli artefici dello storico scudetto della squadra veneta. Carina, molto molto carina. Riferendosi alla cavalcata in playoff di cui parlavo prima con Zaccarelli nel 2005, Lucio da Cremona scrive: ditelo ai mantovani se fu una cavalcata limpida, perché ci fu un'andata e soprattutto un ritorno a Torino molto, molto discusso da un punto di vista arbitrale. Mi ricordo l'arbitro Farina, certamente non rimpianto, almeno da parte mia, arbitro appunto di quel ritorno. Però Lucio, lei confonde gli anni, perché quello era uno spareggio playoff per la Serie A in cui sulla panchina del Torino c'era De Biasi, non quello di Zaccarelli, quindi è un anacronismo il suo. Ci sono parecchi ascoltatori già collegati. Allora, Maurizio Torino, buongiorno. Buongiorno. Volevo solo, a conferma di quello che diceva Zaccarelli, dire solo due cifre. Cairo, presidente, investito quest'anno nel vivaio del Toro, 1.300.000 euro complessivi, nel senso di stipendi, gestione e acquisti dei ragazzi. Una cifra che altre società spendono per acquistare uno o due ragazzi. Questo per significare che forse al nostro presidente interessa veramente poco il vivaio, e se non fosse per Benedetti soprattutto, anche come, ma soprattutto Benedetti che gestisce la scuola calcio e che riesce ad attirare al Toro una miriade di ragazzi bravi, ma solo per la sua personalità, sarebbe un disastro totale. Questa è la conferma solo di quello che diceva il buon Zac, che purtroppo siamo ridotti in questa condizione per il disinteresse totale verso i ragazzi. Sì, che è una politica miope, soprattutto per una società, adesso senza entrare nel merito delle cifre, perché a me poi in realtà per una società combinata abbastanza male come Torino 1.300.000 euro non mi sembrano poi pochissimi, anche se sono pochi in rapporto a quelli che spendono altri, forse non sono pochi in assoluto, sono pochi in rapporto a quello che il Torino ha sempre costruito sul suo vivaio, sul suo settore giovanile, storicamente e tradizionalmente, e aver lasciato andare questo chiamiamolo comparto è stato, io credo, l'errore principale storico di questa gestione, ma già di un paio di gestioni precedenti. Roberto ha chiamato da Padova, buongiorno. buongiorno Gigi, mi scusi, io la chiamo ogni tanto, vorrei di più, quindi le faccio un purpurì proprio velocissimamente come al solito. Volevo dire questo anche se vecchio: Dio esiste veramente, che Barcellona 5 e Mourinho a 0, anche se poi lui ha detto che è meglio, che è meglio una partita 5-0 che 5-1-0, comunque poi glielo deve spiegare i tifosi. In ogni caso, sa, anche l'altra volta ho fatto un mio intervento dicendo che comunque è antipatico, ma l'uomo è dotato. Poi volevo dire una cosa del mio Milan. Secondo me è finita l'euforia iniziale dei centrocampisti, non prendono più una palla. E un'ultima cosa, forse questa va bene per il signor Filippone, non so se lei se lo ricorda, ma il Tottenham ha già incontrato il Milan, lo dico ai milanisti, già così ci portiamo avanti. Non mi ricordo l'anno, però mi ricordo come andò a finire. Grande partita di ritorno, dopo un'andata pareggiata 0-0 a Londra, ma segnò Mallery al sesto, se non sbaglio, e noi uscimmo. Però c'è un particolare che voglio dire, questo lo dico perché vedo che lei è molto attento a certe cose. Quella era la vera Coppa delle Fiere, se lei si ricorda, molte volte l'anno successivo si incontravano quelle che erano arrivate seconde, ma che magari comandavano il campionato, quindi le gare erano molto da Coppa Campioni. Mi permetto di fare questo. Sì, è vero, vero. Poi un saluto a tutti e come solito l'ascolto. Grazie, grazie Roberto. Sì, è vero, quelle coppe avevano un altro spessore, un'altra valenza tecnica. Ci sono altri vivai, mi informava Franco Piantanida con un veloce messaggio, che questa parziale rettifica, anzi a rettifica di quello che diceva l'ascoltatore torinese di prima, che spendono grosso modo complessivamente quella somma in un anno, e stiamo parlando di vivai come l'Udinese per esempio. Poi è chiaro che l'Udinese investe molto, ma molto di più nella ricerca estera, perché ha una rete di osservatori che draga il mercato per il mondo. Poi insomma, nel villaggio globale del calcio di oggi ciascuno ha il suo metodo. Io continuo a credere che quella somma non sia così irrisoria, penso però che sia inadeguata al tipo di calcio e di reclutamento che dovrebbe fare una società come il Torino, che è una società regionale principalmente, che è radicata in un territorio e di limitato a 2, 3, 4 province al massimo, radicato seriamente, intendo dire, poi i tifosi in giro per l'Italia un po' come tutti, e probabilmente quella sarebbe la chiave, non dico per risalire, ma insomma la chiave per investire seriamente, per creare un futuro che oggi oggettivamente non mi pare che si veda. Andrea dalla provincia di Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno. Io, visto che prima si parlava di compleanni, vi seguo solo da mezz'ora, quindi non so se magari l'avete ricordato a inizio trasmissione. Oggi è anche il compleanno di Zamorano, non so se lei ricorda. Sì, no, per carità, va bene. Sì, a parte questa è una premessa, volevo parlare del Barcellona e dirle che a me sinceramente dà un po' fastidio, nei limiti del possibile, il fatto che in Italia la stampa sia prostrata nei confronti di questa squadra, che se ci ricordiamo l'anno scorso nel ritorno in semifinale contro l'Inter non è che si sia dimostrata molto sportiva a livello di tifoseria, anche di giocatori, perché poi quello che è successo nel finale ce lo ricordiamo tutti. Se lo ricorda lei? Sì, se lo ricorda anche lei, cioè gli annaffiatori accesi per impedire... E questi non l'avranno accesi i giocatori, non credo. No, anche i giocatori, perché Valdés, il portiere, andò a stoppare Mourinho mentre correva verso il settore... i tifosi interisti. Sì, e Mourinho come sempre si stava comportando in maniera sobria, no? Credo. Ma vabbè, solo che ha raggiunto la finale Coppa di Campioni avrà diritto anche di manifestare. Io perlomeno la vedo così, io sono rimasto basito, al di là del fatto che io sono interista. Ecco, però che è già un buon parametro, Andrea. Già questo è sempre un buon parametro, non perché è interista, ma in quanto tifoso. Ma al di là di quello, lei potrà essere infastidito da questo piacere che c'è nel vedere il Barcellona. Io personalmente non ho nessun problema se il Barcellona vince o perde. Mi piace moltissimo vederlo giocare, e le dirò che se anche ogni tanto capita, ogni tanto però, di vederlo perdere, insomma, io credo che chi ha la fortuna di frequentare il Camp Nou e chi invece ha la fortuna molto più piccola di vederlo spesso in televisione, comunque ne ricavi uno spettacolo calcistico medio, complessivo, anzi continuativo in questa epoca, che sarebbe un delitto perdere per chi ama quel tipo di spettacolo. Poi invece c'è chi preferisce vedere correre per il campo altri personaggi. Grazie a tutti, grazie a Fabio Cantadori in regia, Franco Piantanida in redazione e buon pomeriggio, a domani.